Beh, comunque adesso iniziamo il consueto programma dedicato al curato d'Ars. Come sapete noi stiamo concludendo la storia e abbiamo già dedicato a lui una bella fetta del nostro tempo, con la speranza di aver fatto cosa utile agli ascoltatori, specie ai sacerdoti. Come sapete noi stiamo parlando nelle ultime puntate dei fatti soprannaturali che si possono registrare nella vita del santo curato d'Ars. Fatti soprannaturali che abbondano, vero? Che abbondano in modo incredibile. Anche se abbiamo tenuto a dire che la santità non consiste in queste cose, vero? Anche se può esserne talvolta un segno di autenticazione, ma non necessariamente. No, la santità consiste essenzialmente nell'essere uniti forte al Signore e nel lasciarsi da Lui lavorare, purificare, illuminare, trasformare. La santità è essenzialmente una partecipazione alla santità di Dio, che Egli ti concede per sua grazia, grazia che però tu devi poi corrispondere con la tua adesione di fede e col tuo impegno personale. Ecco, questa è l'essenza della santità. Quindi i fatti soprannaturali, come ad esempio fare miracoli, o saper predire il futuro, o avere estasi o rapimenti, ecco, tutte queste cose non entrano nell'essenza della santità. Ci possono essere come non essere. Che ci siano o non ci siano, questo non è di per sé determinante ai fini di una valutazione critica circa la santità di una persona. E la Chiesa di queste cose, nei processi di beatificazione, non ne tiene gran conto, vero? La Chiesa chiede un miracolo accertato, sì, ma attenti, dopo la morte, non prima. Un miracolo che in qualche modo provi che questa persona, che questa anima vive attualmente nella gloria di Dio. Miracolo che quindi è come un sigillo posto da Dio stesso. Sigillo dove Dio comprova e conferma il lavoro già svolto dalla commissione d'indagine, che ha fatto ricerche accurate con tanto di testimoni circa le virtù, o meglio circa l'eroicità delle virtù di quella data persona in questione. Ma ripeto, questo è richiesto dopo la morte, quando si sta svolgendo il processo di beatificazione, e non prima della morte. Per cui ci può essere, per esempio, un curato d'Ars, come un Don Bosco, che hanno fatto molti miracoli durante la vita, e può esserci invece una Teresina di Lisieux, che non ha fatto nessun miracolo durante la vita, ma non per questo è meno santa degli altri due. Beh, detto questo, carissimi, riprendiamo a narrare alcuni episodi decisamente fuori dell'ordinario, che riguardano precisamente l'intuito del curato d'Ars nel conoscere la situazione di una persona che in genere non aveva mai visto prima, e nel leggere anche spesso nel futuro di quella persona. E partiamo ancora da quella Suor Maria Francesca, di cui parlammo già la volta scorsa, che aveva, ricorderete, aveva ricevuto stranamente dal curato 3 monete da un franco, per quanto fosse sufficientemente fornita di soldi per il viaggio, ma che poi si rivelarono assai provvidenziali quando si accorse con terrore di aver perduto il portamonete. Beh, la stessa Suor Maria Francesca, in un altro viaggio, giunse ad Ars di buon mattino, in compagnia di sua madre e della sua superiora. Don Vianney, che le vide mentre passava alla sagrestia per prepararsi alla messa, disse piano alla superiora: «Partite subito!» «Ma, padre mio, è la messa?» «No, figlia mia, non aspettate! Partite subito, una di voi sta per cadere ammalata. Se attendete non potrete partire tanto presto». Ebbene, piena di spavento, la superiora obbligò le altre due al ritorno. Sentiamo ora la testimonianza della stessa Suor Maria Francesca, che narra l'epilogo del viaggio in questo modo, il viaggio di ritorno. Dice: due leghe prima di arrivare a casa fui sorpresa da una grande pena, tanto da non poter continuare il viaggio. Cosicché la mia superiora e mia madre furono costrette a sorreggermi e a trascinarmi. Era per me il principio di una malattia grave che mi avrebbe obbligata a letto per 15 giorni. E ora, carissimi, godiamoci, per modo di dire, godiamoci, anzi, ascoltiamo con trepidazione questo fatto tanto impressionante e tanto significativo. Verso le 11 di una mattina d'estate assistevano al catechismo di Don Vianney due ragazze, due giovani, venute al villaggio di Ars più per curiosità che non per devozione. Una di esse, la meno seria, insoddisfatta dello spettacolo, indicando questo prete Don Vianney tanto semplice nel suo linguaggio e nel suo portamento, disse sottovoce all'amica: «Quale caricatura! Non valeva proprio la pena di venire fin qui da tanto lontano». Attenti, il predicatore, come se avesse sentito, colse questa espressione al volo e, fermandosi con un sorriso un po' scherzoso, completò l'osservazione con queste parole: «Non è vero, signorina, che non valeva la pena di venire da così lontano per vedere una caricatura?» E continuò il catechismo. È facile immaginare l'impressione della giovane. Rimase tuttavia in chiesa e, quando fu finita l'istruzione, andò con le lacrime agli occhi a cercare Don Vianney per presentargli le sue scuse. Il servo di Dio la accolse insieme all'amica con l'abituale bontà e disse: «Per penitenza vi confesserete e domani farete la comunione». Poi prese da parte l'amica della colpevole e le confidò queste previsioni. Disse: «Nel ritorno sorvegliate la vostra compagna di viaggio, perché le succederà una disgrazia. Ma siccome domani riceverà la comunione come viatico, la sua salvezza non sarà compromessa». Ebbene, le due ragazze fecero con fervore le loro devozioni e, felici di aver compiuto il pellegrinaggio, ripresero la via del ritorno con passo agile e svelto. E colei che aveva ricevuto l'incarico di sorvegliare la compagna ormai non pensava più alle raccomandazioni del santo, quando un bel momento udì un grido improvviso. Ebbene, la sua compagna era stata morsicata una gamba da una vipera. E dobbiamo dire che l'intossicazione fu istantanea e la giovane morì sulla strada, senza che fosse possibile portarle alcun soccorso, alcun aiuto. Come vedete, carissimi, un episodio altamente drammatico, vero, e oltremodo impressionante, che iniziò con dei risolini ironici e finì tragicamente con una morte improvvisa e prematura. Ebbene, dopo questo avvenimento, qualcuno pensò che il curato avrebbe dovuto non solamente avvertire del male che sarebbe sopraggiunto, ma anche in qualche modo prevenirlo, no? Ma che volete, carissimi? Forse il santo aveva avuto solo l'intuizione di un male inevitabile e senza conoscere la causa e le circostanze. Mentre noi sappiamo benissimo che in altre occasioni è guidato dalla luce di Dio, non solo ha previsto le disgrazie, ma ha aggiunto anche che si sarebbe sfuggiti alle disgrazie e anche spesso il modo per evitarle. Ecco, come vedete, siamo in pieno mistero. Dio illumina i suoi santi in base ai suoi decreti imperscrutabili. E ancora una volta l'unica cosa da fare è mettersi in ginocchio e adorare i suoi misteriosi disegni. E ora, carissimi, un ultimo fatto di questo genere, fra i molti che ne rimarrebbero, sempre per illustrare questo carisma del curato d'Ars di conoscere il futuro. Ascoltiamolo dalla stessa protagonista, che è la vedova di un comandante di cavalleria. Anzi, non è la protagonista, ma è colei che ha udito questo racconto dalla protagonista. Dice: Un giorno andai con mio marito e con amici a visitare un buon sacerdote, un buon parroco, il quale ci trattenne a colazione e poi volle condurre tutta la comitiva a pescare, che era il suo hobby preferito. Ma essendo io indisposta, mi trattenni in casa con la domestica, che era una giovane di alta statura, la quale, servendomi il tè, mi fece questo straordinario racconto e disse: quando avevo 19 anni e mi trovavo in un orfanotrofio, ecco che per guadagnarmi il vitto chiesi di andare a Lione a cercarmi un posto di lavoro. La superiora fu d'accordo e mi affidò a una signora che doveva andare a Lione, ma che sarebbe prima passata per Ars per consultare il curato. Entrammo in chiesa mentre Don Vianney faceva il suo catechismo sul segno della croce. Appena mi vide, si interruppe e, indirizzandosi a me, disse: «Là, quella grande, venga subito a trovarmi in sacrestia, che ho qualcosa da dirle». Finito il catechismo, andai in sacrestia e, senza che io dicessi una parola, il curato cominciò: «Voi andate a Lione, figlia mia. Ebbene, sappiate che vi attende un grave pericolo, ma quando lo vedrete vicino, ricordatevi di me e pregate Iddio». Quando arrivai a Lione, cominciai le mie ricerche, ma non avendo trovato nulla per 3 giorni, mi recai presso un ufficio di collocamento, dove vidi 2 uomini in attesa. Esposto il mio caso, uno di essi mi disse: «Voi cercate un posto, benissimo. Io ho appunto bisogno di una governante». E concluso l'accordo, aggiunse: «Ma è necessario che vi veda anche mia moglie, e quindi verrete a casa mia alle 3 del pomeriggio a questo indirizzo». Abitavo in un certo paese e mi recai là all'ora indicata. Ma come mi sembrava lunga la strada! Vi erano là molti battelli e molti marinai, quando, dopo una svolta, mi trovai in una località deserta dove c'era un'unica casa. E vidi sulla soglia l'uomo che mi aveva dato l'indirizzo e che mi faceva segno di avanzare. Improvvisamente fui presa da una grande paura. Ricordandomi delle parole del curato d'Ars, mi raccomandai a Dio e, lanciato un grido, cominciai a correre più che potevo. Quell'uomo mi rincorse cercando di passarmi un laccio attorno al collo, ma non vi riuscì e dovette fermarsi quando ci trovammo in vicinanza dei battellieri. Attenti ora, cosa dice? Seppi in seguito che poco era mancato non cadessi nelle mani del famoso Dumollard, che fu detto l'assassino delle governanti. E quando quest'uomo fu arrestato, io fui chiamata in corte d'assise tra i suoi accusatori. Ma convenite che senza il curato d'Ars, puntini. Beh, io credo, carissimi, che non sia il caso di commentare questo episodio, vero? Si commenta da solo. Vedete che qui, in questa occasione, il curato d'Ars non ha solo indicato il pericolo, ma ha anche indicato il modo per sfuggire al pericolo, facendoci così capire che il Signore non ha piacere di vederci cadere in mano agli uomini, vero, in mano ai cattivi, di vederci cadere vittime della violenza o della bestialità o della brutalità. E se talvolta lo permette, come nel caso dello stesso Gesù, è certo per cavarne un maggior bene. Adesso facciamo uno stacco musicale, carissimi, poi riprenderemo la nostra storia. Ecco, riprendiamo e passiamo adesso, carissimi, a un altro capitolo intitolato «Fatti visti a distanza». Qui, come vedrete, non si tratta più di decifrare il futuro, ma si tratta proprio di chiaroveggenza, cioè si tratta di conoscere situazioni e fatti presenti, attuali, ma senza avere tuttavia alcuna possibilità di verificare la cosa concretamente e sensibilmente. Ecco, cominciamo a dire che Don Vianney penetrava nel mistero spontaneamente, cioè senza alcuno sforzo e senza alcun apparato scenico. Per esempio al confessionale leggeva nei cuori, vero? E in qualunque luogo si trovasse, in sacrestia, sul pulpito, nella strada, nelle conversazioni più semplici e più indifferenti, come anche all'altare durante la messa, dovunque manifestava questo suo straordinario potere. Ecco, non aveva bisogno di un apparato scenico. E dobbiamo dire che la sua intuizione non aveva sempre come oggetto persone o cose di grande importanza, no, ma qualche volta si limitava agli avvenimenti minimi e più comuni e si manifestava nel modo più inatteso. Facciamo subito qualche esempio per farvi meglio capire la cosa. A una giovane di Lione, che gli aveva scritto circa la sua vocazione e che lui vedeva per la prima volta, disse, e prima che quella aprisse bocca, disse: «Ah, eccovi finalmente!» Come se avesse già intuito tutto. Al cameriere di un vescovo, che il prelato non chiamava mai col nome di battesimo, ma si chiamava Giovanni, però il prelato lo chiamava con un altro nome, cioè con un soprannome, Don Vianney fece dono di una piccola statua di San Giovanni Battista, dicendogli: «Prendete, figlio mio, e tenete in mia memoria l'immagine del vostro santo patrono». Terzo esempio, stando in piedi sulla soglia del confessionale, quindi separato dalla navata da uno spesso muro, diceva a una persona incaricata di mantenere l'ordine nella chiesa, diceva: «Chiamate la signora che è inginocchiata sotto il pulpito e che tiene in mano un fazzoletto bianco, ho qualcosa da dirle». E non la poteva certo vedere da quella posizione. Altro fatto, nel luglio 59, la giovane Maria di Lione scendeva per la prima volta dall'omnibus che si era fermato davanti alla chiesa di Ars, quando vide venirle incontro un giovane che sembrava là ad attenderla e che le disse: «Signorina, il curato desidera parlarle». «A me?» «Sì. Ero di guardia in questo momento e il signor curato mi disse: andate all'omnibus e dite alla giovane che scenderà per prima che l'attendo subito al confessionale». Difatti dobbiamo dire che la salute di quella giovane era piuttosto debole e non avrebbe potuto fermarsi nel villaggio che poco tempo. Il curato l'aveva già previsto. Beh, adesso un fatto direi assai significativo, che forse ci farà riscoprire qualcosa di importante. Una mattina, durante la messa di Don Vianney, alla balaustra della chiesetta di Ars, si trovava una donna, davanti alla quale il curato passò per ben due volte senza dare la comunione. «Padre mio», disse la donna sottovoce al terzo passaggio, «non mi avete ancora dato la comunione?» Risposta: «Lo so, perché stamattina avete preso qualcosa». E difatti questa donna, ritirandosi, si ricordò di aver mangiato un boccone di pane al mattino mentre si alzava. E come sapete, allora vigeva questa legge del digiuno dalla mezzanotte. Passiamo subito a quest'altro episodio. Nel maggio 54 era venuta a Lione la giovane Amy, che aveva un negozio, un bazar, in una certa città, per chiedere la guarigione di una zia domiciliata a Lione. Alla sua richiesta il santo curato rispondeva con queste parole: «Farete una novena a Santa Filomena e vostra zia sarà presto guarita». Risposta: «Se è così, parto subito per Lione. La zia sarà tanto contenta». Risposta: «No, dopo la mia messa prendete il battello e ritornate presto a casa, perché intanto che siete qui gli affari vanno male». E la giovane comprese il significato di queste parole. Difatti la persona alla quale aveva affidato il negozio, il suo piccolo bazar, suo piccolo magazzino, non si faceva scrupolo di scialacquare. E quanto alla malata, guarì poco tempo dopo. Ecco, vedete che in questo caso il Signore dimostra attraverso il suo servo di avere a cuore anche i nostri affari economici. Non è vero che Dio disprezza queste cose, anzi, trattandosi del pane quotidiano, egli è assai sollecito. Comunque passiamo a un altro fatto molto breve. Un giorno una persona di Lione, accompagnata da una fanciulla di 10 anni, si presentava alla sacrestia per farsi benedire oggetti di pietà. Ma prima di fare su di essi il segno di croce, Don Vianney mise da parte una medaglia e disse: «Questa non la posso benedire». Difatti si trattava di una medaglia rubata in un magazzino. Ecco, mi pare un episodio che non ha bisogno di alcun commento, vero? Ora sentite questo. Un certo Jean-Claude Viré, che era un ricco contadino, arrivato un po' in ritardo al catechismo delle 11, aveva trovato posto a stento dietro il piccolo pulpito vicino alla sacrestia. Don Vianney non l'aveva visto entrare, quindi ignorava la sua presenza e ignorava anche il luogo dove si era collocato. Attenti, siccome la voce del catechista, del predicatore, era molto debole, quest'uomo, dopo aver teso un po' l'orecchio per ascoltare, ma invano, cominciò a sgranare macchinalmente la sua corona del rosario. Ma presto, attenti, il facoltoso contadino si servì delle sue dita per fare invece il conto delle sue rendite. Ed ecco che ad un tratto il catechista, alzando il tono della voce, lascia capire anche al contadino distratto queste parole: «Figli miei, si viene in chiesa e si sta davanti a nostro Signore senza badare che si è alla sua presenza. Precisamente come quella persona che è alla porta della sacrestia e che sembra recitare il rosario. Invece fa il conto delle sue rendite sulle dita. Figli miei, il pensiero che non si abbia rispetto per nostro Signore fa tremare». Beh, al povero contadino, che si sentiva preso di mira, non rimase altro che chinare il capo per un sentito mea culpa. E ora, carissimi, sentitevi questo fatto un po' ghiacciante, che fa veramente accapponare la pelle. Ogni anno veniva ad Ars per 3 o 4 giorni una pia contadina e subito, cosa nota al curato, e subito prendeva posto presso il suo confessionale. Ebbene, in una di queste circostanze, dopo di averla confessata, il curato le domandò: «Quanto tempo vi fermate qui ad Ars?» «Fin domani, padre». «No, partite oggi, c'è un serpente nella vostra casa». Scusate. La buona donna, che non osava dubitare di una parola tanto autorevole, si affrettò a raggiungere la sua casa. E dovete sapere che durante la sua assenza, e senza che lei non ne sapesse nulla, suo marito, pensando di farle cosa gradita, aveva esposto al sole il pagliericcio del letto, riempito di foglie di grano turco. Ma al ritorno ogni cosa era già di nuovo al suo posto come prima. Bene, sconcertata e quasi timorosa di uno scherzo, non parlò al marito di questo avvertimento strano avuto dal curato d'Ars. Forse anche perché non l'aveva capito, di quale serpente aveva parlato il servo di Dio. Ebbene, faceva questa considerazione quando scosse il letto e, ahimè, vide allora un grosso rettile passare sul pavimento per uscire sul cortile, e dove fu ucciso da alcune persone accorse alle sue grida. Ecco, vedete. E ora, carissimi, gran finale, riguarda un povero pastorello di soli 11 anni. E un giorno un montone del suo gregge fu rapito da un lupo, per cui il poveretto fu picchiato, fu percosso dai padroni e per il dolore fuggì. Non osando tornare in famiglia, si allontanò senza meta e, dopo aver un po' girovagato, fu preso su da un vetturino che si era impietosito. Durante il viaggio questo ragazzo si addormentò profondamente. Giunto a destinazione, il vetturino lo svegliò e, avendo egli attirato la sua simpatia, acconsentì a prenderlo con sé e gli diede anche un lavoro come piccolo minatore. La madre, avendo saputo della sua scomparsa, si mise a cercarlo, ma senza risultato. Dopo 4 anni si fece l'idea che fosse morto, ma non poteva rassegnarsi. Per cui, avendo saputo del curato d'Ars, mandò a lui una figlia per avere, se possibile, qualche schiarimento. «Figlia mia», disse il curato alle sue prime parole, «dite a vostra madre che suo figlio sta bene. È occupato sottoterra con gente onesta, lontano di qui e lontano da voi. Ma consolatevi entrambe, il giovane ritornerà in un giorno di festa». Ebbene, questa rivelazione straordinaria si avverò letteralmente. 5 o 6 anni dopo, la sera dell'assunta, si presentava alla mamma un giovane, ed era proprio lui. Dopo i primi abbracci, la mamma volle sapere se si era conservato un buon cristiano. «Sì, mamma, ho sempre adempiuto a tutti i miei doveri». A queste parole la gioia della madre fu al colmo. Ringraziando Dio di una tale fortuna, lo pregò di lasciarla morire. Difatti morì poco tempo dopo, ma felice per aver potuto rivedere suo figlio e per saperlo nella via del bene. E anche questo, carissimi, mi pare un fatto che non ha bisogno di alcun commento, vero? Tanto è bello e commovente. Sono quegli episodi che a udirli ti danno la carica e ti rivestono di nuovo vigore. Adesso diciamo la preghiera del cielo, che mi è giunta da un'ascoltatrice ed è stata composta dalle missionarie di Gesù, Eterno Sacerdote di Varallo-Sesia. È una bellissima preghiera al quale è legata anche l'indulgenza plenaria, ecco, secondo le norme della Costituzione Apostolica Indulgentiarum Doctrina. Mio Dio, ti adoro e ti amo. Per le mani della Madonna, con la tua grazia e il tuo aiuto, accetto da te, o Signore, fin d'ora spontaneamente qualsiasi genere di morte, come a te piacerà di mandarmi, e ti domando la grazia di non aver paura della morte e di perdonarmi tutti i miei peccati. L'accetto in unione con il sacrificio che tu, o Gesù, sommo ed eterno sacerdote, hai fatto di te stesso sulla croce e che ora rinnovi su tanti altari. Intendo offrirti la mia morte nello spirito delle sante messe che saranno in quel momento celebrate, e ti offro i tuoi meriti infiniti per pagare i miei peccati e la pena del purgatorio. Salvato dal tuo sangue, per i tuoi meriti e per quelli della tua divina madre, ti chiedo la stessa misericordia usata al buon ladrone, la grazia cioè di entrare subito con te in paradiso e di avere subito la perfetta visione beatifica di Dio. Amen. Ti ringrazio, Gesù mio. Ecco, una bellissima preghiera che ci fa guardare alla morte con molta serenità, proprio come il grande passaggio verso la vita eterna, e che esprime una grande fiducia nella misericordia del Signore, il quale abbiamo viva speranza ci perdonerà tutti i peccati e ci introdurrà subito nella gloria eterna, malgrado i nostri peccati, ecco, un po' come è successo al buon ladrone, il quale, veramente pentito dei suoi peccati, ha avuto la fortuna di sentirsi dire da Gesù: oggi sarai con me in paradiso. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Ecco quello che vorremmo che Gesù dicesse a ognuno di noi, a tutti noi ascoltatori di Radio Maria. Ecco, adesso, carissimi, passiamo allora alle 3 letture della prossima domenica, poi dopo ascolteremo Sua Eccellenza. Prima lettura dal libro della Genesi, è diciamo pure l'inizio di una storia meravigliosa, la storia di Dio che chiama l'umanità a sé. Ed è esattamente la vocazione di Abramo, il quale, come sapete, è il capostipite del popolo eletto, del popolo di Dio, ma considerato il capostipite di tutti i credenti. Ecco, questo è il momento preciso in cui Dio chiama Abramo e in lui tutti i credenti. Siamo al capitolo 14 della Genesi, i primi 4 versetti. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Ecco, ricordiamo che il ritornello del Salmo è il seguente: donaci, Signore, la tua grazia, in te speriamo. E il Salmo è tratto dal Salmo 32. Ora passiamo alla seconda lettura, che è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. E qui entra un elemento importante, che è quello della sofferenza e quello della grazia. Ecco, noi dobbiamo soffrire nella vita, aiutati dalla forza di Dio, e se ci salveremo per grazia. Ecco, però anche queste sofferenze certamente hanno contribuito alla salvezza. Siamo alla seconda a Timoteo, capitolo 1, versetti 8-10. Carissimo, soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Ora, carissimi, proclamiamo il Vangelo della Trasfigurazione, ricordando che ci troviamo nel Vangelo di San Matteo, capitolo 17, i primi 9 versetti. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparve loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi, non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Vorremmo riproporre una breve meditazione sulla liturgia della parola della prossima domenica. Ecco, ricordo che la liturgia della prossima domenica è imperniata sul Vangelo della Trasfigurazione, però è preceduto dalla lettura su Abramo, che viene chiamato da Dio a uscire dalla sua terra, andare verso un paese ignoto, che lui gli avrebbe indicato, e poi ancora abbiamo sentito una seconda lettura, bellissima, dalla seconda Timoteo, dove San Paolo dice a Timoteo di soffrire per il Vangelo, soffrire volentieri, con serenità, perché questa è appunto la volontà di Dio, soffrire per aiutare le anime a salvarsi, soffrire insieme a Gesù naturalmente e con la sua forza. Ecco, mi pare che le tre letture di oggi, rito romano, abbiano un nesso logico strettissimo, meraviglioso. Ecco, la prima lettura direi che ci indica un cammino, vero? Un cammino da percorrere, un cammino misterioso, di cui non vediamo ancora il termine. Ecco, però un cammino dove noi dovremo fidarci unicamente del Signore. Ecco, esci dalla tua terra e va verso il paese che io ti indicherò. Questo è il cammino della vita cristiana. Ecco, la seconda lettura invece ci indica, direi, le difficoltà del cammino, cioè questo cammino che Dio ci invita a percorrere, basandoci unicamente sulla sua parola, è un cammino senz'altro difficile, anche un po' doloroso. Non è certo una via larga e spaziosa, no? Dove possiamo cullarci nelle comodità, nella mollezza, ma è al contrario una via stretta e angusta, cosparsa di triboli e spine, per cui occorre tanto coraggio per andare avanti, soprattutto occorre molta fede, ossia occorre una ferma convinzione che chi ci ha detto esci dalla tua terra e va verso il paese che io ti indicherò, ebbene, occorre essere convinti che costui non si sbaglia, non mente, non bara, ma è capace di fartela veramente raggiungere quella meta, e malgrado tutto, malgrado le difficoltà e le sofferenze. Anzi, le sofferenze aiutano, favoriscono questa buona causa. È proprio come dice San Paolo nella seconda lettura, soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Ma eccoci giunti, carissimi, al brano evangelico. Ecco, mi chiedo, il Vangelo di oggi cosa rappresenta dal momento che è collegato a queste prime due letture? E mi pare chiarissimo. Rappresenta il termine del cammino. E Gesù si mostra ai suoi discepoli praticamente già nella gloria della risurrezione. In quella risurrezione in cui entreranno anch'essi un giorno dopo aver percorso per Gesù e con Gesù la via dolorosa della croce e dopo aver consumato pure loro come Gesù il loro sacrificio vespertino finale. Dunque il Vangelo della Trasfigurazione direi che è una preziosissima indicazione per il futuro. Esci dalla tua terra e va verso il paese che io ti indicherò. Sì, questo paese è lontano, misterioso finché volete. Ma se Dio ci invita a raggiungerlo, certo non sarà un inganno, non sarà una presa in giro, ma rappresenta qualcosa di veramente bello, di veramente grande. E vale veramente la pena di impegnarci per raggiungerlo. Ecco, la Quaresima è dunque, direi, carissimi, il simbolo della nostra vita cristiana su questa terra, dove noi siamo sottoposti a diverse prove, sofferenze, ma che ha come meta finale la Pasqua, la risurrezione, la gioia, la vita eterna, in compagnia del Signore, quasi compartecipi della sua vittoria. Quella vittoria che Lui ci ha meritato col suo sacrificio e che noi abbiamo meritato con la sua grazia, sempre per merito suo. Ecco, rimane famoso in questo brano evangelico l'intervento di San Pietro, vero? Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Ecco, San Pietro, con la sua solita ingenuità e sincerità, dice in questo momento quello che pensa, dimostrando per ora di non aver capito ancora la lezione, vero? Cioè questo momento di paradiso che stavano vivendo i tre apostoli non rappresenta la meta finale, no, ma solo un attimo di sosta, di respiro, prima di affrontare la grande prova del Calvario e per riuscire quindi a sopportare lo scandalo della croce. Ecco, sappiamo che questi stessi tre apostoli poi si troveranno ancora in un ben altro ambiente, cioè si troveranno nel Getsemani, no? In un ambiente impregnato di angosce, di dolore, di sofferenza. Dunque non è ancora stata raggiunta la meta, ma è solo un momento di sosta in vista del Calvario, che poi avrebbe portato a sua volta la gloria della risurrezione. Ecco, invece San Pietro ingenuamente pensa di essere già arrivato al capolinea, no? E di poter già gustare quella che sarà la gioia eterna. Ecco, facciamo tre tende, basta, ormai abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ecco, dunque, carissimi, non confondiamo le carte in tavola, eh? Non illudiamoci che su questa terra si possa già gustare il paradiso, no. Questo non è possibile. Diciamo che non rientra nei piani di Dio, il quale ha programmato il paradiso per quando noi avremo concluso questo viaggio sulla terra. E se no, se vogliamo il paradiso qua giù, non potremo più averlo lassù. E poi, carissimi, come faremmo a esercitare la fede e la speranza se già possedessimo quanto desideriamo? No, la vita, come dice giustamente Sant'Agostino, la vita è tutta una ginnastica del desiderio. E qua giù non saremo mai pienamente soddisfatti, no, mai. Ma questo, badate, è un elemento molto prezioso, eh sì, altrimenti, come ripeto, che senso avrebbero ancora le due virtù teologali della fede e della speranza, se già possedessimo quanto desideriamo? Ma dobbiamo anche molto ringraziare il Signore che non ci lascia mancare sul nostro cammino dei momenti di vero paradiso, o meglio dei momenti in cui pregustiamo il paradiso. E altrimenti il cammino ci sembrerebbe forse troppo aspro, troppo duro e perciò impraticabile. Ecco. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.